Parliamo di mangiare perché ormai siamo immersi in quel periodo dell'anno in cui ogni sera c'è qualcosa, c'è un aperitivo tra amici, parenti, gli apericena. Chi cazzo se l'è inventata quella parola? Io vorrei sapere chi se l'è inventata la parola apericena. Poi c'è la cena aziendale, quella con il mega direttore galattico che bisogna andare per forza perché sennò ti licenziano. Ma che cazzo mi licenzi? C'ho un contratto finto di collaborazione coperto da una finta partita IVA. E appunto, così è più facile. Sì, ma comunque era più facile anche prima. Ma se non vieni, è ancora più facile. E poi ci sono quelle serate in cui si va a trovare i parenti, no? I parenti, gli amici che non vediamo da tanto, che ne approfittano per raccontarci le cose, per salutarci, per dirci come va, per tenerci ore e ore a farci vedere le foto. E forse ci viene in mente che se non li vediamo da tanto c'è anche un motivo, evidentemente. E poi ci sono le vere e proprie feste. Le feste organizzate da qualsiasi ente con cui siamo entrati in contatto. La scuola d'inglese, il teatro, lo studio Pilates, la palestra, il pub, il grande magazzino, lo studio medico associato, la libreria, il mercato comunale, il bar sotto casa, lo studio d'architettura, l'albergo, l'agenzia di comunicazione, ci manca solo il kebab bar e l'edicolante. E siamo a posto. La roba terribile. Io personalmente domani ho 3 cene contemporanee, non so dove andare, sono l'imbarazzo della scelta. Per 20 giorni, ogni sera, ci si vede con persone per lo più estranee ad ingozzarci di cibi mal cotti e a bere bollicine che portano l'ulcera per fare che cosa? Per farci gli auguri di Natale. Solo per questo. Poi arriviamo a questi eventi tra virgolette, pieni di pacchetti, pacchettini di ogni tipo, no? Guarda, quest'anno non avevo proprio nessuna idea, ma poi venendo qua, sono passato da Tiger e ho trovato questi bellissimi pendolini di Newton con la lucetta e mi sono detto, boh, perfetto, lo adoreranno, costano solo 7 euro, ne ho presi 25. Ma come 25? Ma che cazzo? Ma 25? Ma chi li regali 25? Vabbè, no, li regalo a quei deficienti dei miei colleghi. Cosa che regalo la roba di Tiger a chi veramente voglio bene? That's Christmas, amici miei. Potrei continuare, ma sarebbe solo peggio. Mangiare, bere fino a piegarsi in due, fare regali ad minchiam solo perché bisogna farli. La civiltà occidentale. La parte giusta e bella del mondo civilizzato. Questo. No comment. Una volta non era così. Già quando ero bambino io, a inizio anni 70, le cose stavano diversamente. Tutta questa corsa folle nel mese di dicembre non c'era mica. Si faceva il pranzo del 25 a casa mia, che venivano gli zii e i cuginetti, che vedevo solo quella volta lì, e basta. Stop, c'era nient'altro. Alcuni amici in realtà facevano anche la cena del 24. Tra questi il mio migliore amico, si chiamava Nunzio, si chiama perché è tuttora vivo, e io chiedevo a mia mamma, ma perché il Nunzio fa la cena del 24? E mia mamma rispondeva, ah ma loro sono terroni. Che potrebbe sembrare razzismo, ma non lo era, no? Cioè era come dire, noi siamo noi, loro sono loro, ecco, c'è una demarcazione, c'è una differenza, ecco, poi per carità, loro possono fare quello che vogliono. Quindi loro erano terroni, in effetti il nome Nunzio non è particolarmente nordico, e mangiavano il 24 e anche il 25. Saranno terroni, ma non erano scemi, però loro mangiavano sia il 24 che il 25, e noi solo il 25 invece. Ma se si va ancora più indietro nel tempo, quando io non esistevo ancora, non c'era neanche tutto questo. Il Natale aveva un senso di verità, un senso di attesa. Perché il Natale è a fine dicembre? Non so se ve lo siete mai chiesto. Nei Vangeli non c'è scritto da nessuna parte che Gesù sia nato in questo periodo dell'anno. Nessun Vangelo. L'unico riferimento possibile è nel Vangelo di Luca. Lì si parla di pastori che vengono di notte facendo la guardia al gregge. Quindi si può immaginare che la nascita sia avvenuta nel periodo della pastorizia. Che sfortunatamente però nell'antica Palestina avveniva fra marzo e settembre. Quindi con dicembre non c'entra assolutamente niente. L'idea che la nascita di Gesù fosse il 25 dicembre è cominciata a circolare nel 354 d.C., quando uno studioso romano, un certo Furio Dionisio Filocalo, o Filocalo, non so, tanto che ce frega, scrive il Chronographus, che è un calendario illustrato con i segni zodiacali. C'è in pratica un incrocio tra Frate Indovino e Paolo Fox, più o meno. Ecco lì, fra dediche al Papa, all'imperatore, le liste dei consoli, dei prefetti e amenità varie, c'è scritto che 20 anni prima a Roma si è celebrata la nascita del Cristo il 25 dicembre, che in realtà il 25 dicembre è il giorno di una festa pagana, introdotta 200 anni prima dall'imperatore Elio Gabalo, il Sol Invictus, come anniversario della nascita del Sole, che si sovrappone e prende il posto come festa degli antichi Saturnali, feste sfrenate in cui ci succedeva la qualunque proprio. Probabilmente la comunità cristiana di Roma vuole approfittare del contorno della festa, un po' per dare un significato diverso, un po' per fare proselitismo, perché visto che il giorno a Roma arrivano un sacco di persone, per cui nuovi fedeli e un po' di soldi. Forse il tentativo non è andato a buon fine, perché 20 anni dopo nessuno se lo ricorda, ma Papa Liberio legge il Chronographus. Non so se gli piaceva più Frate Indovino o Paolo Fox, però legge il Chronographus, fiuta l'opportunità e solennemente dichiara il 25 dicembre come reale e sacrosanto giorno di nascita di Gesù. Andiamo, lo sanno tutti, no? Dai, su. La decisione viene gradualmente accettata da tutte le comunità cristiane dell'impero, tutte tranne quella armena. Gli armeni ancora oggi celebrano il Natale il 6 gennaio. Ma d'altronde gli armeni sono persone strane, sono gnocchi, che da 100 anni che continuano a dire di essere stati massacrati dai turchi, anche se questi dicono che non è vero. Per cui, bah, è gente strana. Poi nei secoli successivi si faranno naturalmente dottissime argomentazioni storico-teologiche sulla verità del 25 dicembre, perché si trova il motivo, ma sì, la pastorizia era a settembre, ma quell'anno è stata a dicembre. Vabbè, perché c'era la neve, c'era così. Ma in realtà si toglie un qualcosa che è sotto gli occhi di tutti, cioè i primi giorni dopo il solstizio d'inverno, che è il 21 dicembre, sono momenti di gioia da sempre. Fin da quando i nostri antenati preistorici all'improvviso si rendono conto che, come per magia, il buio arriva qualche minuto dopo, nel corso della giornata. Cazzo! Questo significa che il dio della luce sta prendendo il sopravvento e fra qualche mese sarà lui il vincitore, non il diavolo delle tenebre. Che figata! Per noi sembra una stupidata, ma pensate chi lo ha vissuto la prima volta. Cioè, il primo che se ne è reso conto. Praticamente è come l'Olanda con l'Argentina nei mondiali la settimana scorsa, che perdeva 2-0 a un quarto d'ora dalla fine e ha fatto 2 gol e ha detto adesso vinciamo noi, è andata male. Ok? Però, cioè, più o meno è quello. L'attesa e la speranza. Perché la luce sta tornando e gli fa un culo così al buio. E con chi si attende? Da soli? E no, fa tristezza. Dai. No, con le persone con cui viviamo di solito, cioè con la nostra famiglia. E magari si attende anche in più famiglie insieme, no? Che si sta al caldo, ecco, si fa compagnia, no? E per scaldarsi meglio cosa si fa? Si prende un bel ceppo di legno, bello grosso, più grande possibile. Lo si mette sul fuoco a bruciare e si sta tutti intorno a guardarlo consumarsi lentamente. E mentre il ceppo si consuma cosa si fa? Beh, siamo qui, mangiamo, no? Questo è Natale, mica gli apericena, mica Tiger. L'usanza di bruciare un grande pezzo di legno, qualche giorno dopo il solstizio, si perde nella notte dei tempi, ma comincia a diventare tradizione molto più tardi. XII secolo, Nord Europa, si incomincia per la prima volta in Germania nel 1184. Non chiedetemi per se sia vero o no, l'ho trovato su Wikipedia. Quindi è vero, perché Wikipedia è vero, è la verità. Poi si sale in Scandinavia e poi si scende nelle Alpi italiane. La tradizione poi si espande velocemente anche in Francia, in Spagna, penisola balcanica, nel resto d'Europa, ma non nel Regno Unito. La tradizione nel Regno Unito arriva solo nel 600, in Scozia addirittura moltissimo tempo dopo, ma non per separatismo, semplicemente perché non c'era il legno da bruciare, per cui in Scozia non ci sono molte foreste, per cui la tradizione codifica, perché le tradizioni poi sono precise, no? Cioè, andate a chiedere a una nonna emiliana come si fanno i tortellini e te lo dici, si fanno così e basta, cioè non c'è altro modo. Tradizione codifica di far bruciare il tronco di legno per 12 giorni, perché è un simbolo dei 12 mesi dell'anno, in cui il sole, appena nato, avrebbe dovuto nutrire il terreno. E, guarda caso, il 13° giorno dopo il Natale è il 6 gennaio. Tac! Non è un caso. C'è un cazzo di casuale. Allora, in quel giorno, il 6 gennaio, il ceppo ormai è del tutto bruciato. Quindi si toglie, ma non lo si butta via, no, lo si tiene da parte, perché ha qualità magiche, tipo che protegge dai fulmini, assicura la fertilità femminile, favorisce il raccolto, e poi verrà usato l'anno dopo per accendere quello nuovo. E poi si torna agli affari consueti, dopo il 6 gennaio, e sì, perché per quei 12 giorni non si lavora, si sta spesso tutti insieme intorno al camino a vedere il ceppo bruciare, si guarda. Tutti allegri, perché la luce sta tornando, e si festeggia bevendo e mangiando. Siccome è una festa, il mangiare deve essere speciale, no? È il mangiare della domenica, mica la solita sbobba triste. Allora è il momento, per esempio, del pane di frumento, che è roba pregiata. Mica il solito pane di mais o pane di miglio. La tradizione cambia leggermente di paese in paese, ma in sostanza rimane identica. In Lombardia, dove ci troviamo, la tradizione impone che il pater familias orni il ceppo di fronde e di mele, ci metta sopra 3 monete, prima di farlo bruciare, che sono simbolo della Trinità, poi lo innaffia col ginepro e ci getti sopra il vino rimasto dopo le bevute. E poi al termine della cena dividerà con i familiari 3 grandi pani di frumento, di cui però conserverà per tutto l'anno successivo un piccolo pezzo ciascuno come talismano. Qui è il punto. 3 grandi pani di frumento, dei panoni, ecco, piatti, poco lievitati, non dolci, più simili a delle focaccione giganti, ecco, che ad altro, però forse qui sta l'antenato del panettone, cioè il dolce che più di ogni altro in Italia significa Natale. In realtà il fatto che per festeggiare si debba mangiare qualcosa di zuccherato e possibilmente speciale, ecco, è un'idea che si sparge in tutta Europa solo nell'Ottocento. Però un'idea che non solo ha avuto parecchia fortuna, ma che dimostra l'inesauribile fantasia dei popoli europei, perché anche se c'è un'origine comune, il prodotto finale varia tantissimo di paese in paese. E allora, se volete, se vi va, e anche se non vi va, l'ho scritto, per cui ve lo dico, cominciamo questo bel tour de force in giro per l'Europa, quella vera, senza la Brexit, quindi c'è anche la Gran Bretagna, a base di dolci. Francia, la bûche de Noël, l'analogo del nostro tronchetto di Natale, cioè un rotolo di pan di Spagna farcito con crema al cioccolato e glassato in modo da sembrare un tronco d'albero. Poi c'è il Beppelmann, un dolce dell'Alsazia, ripieno di ciliegie e vino rosso, che va servito caldo. E la croquembouche di Natale, una piramide di bignè alla crema ricoperta di caramello o cioccolato fuso. Nel Regno Unito, i gingerbread, biscotti di pan di zenzero dalle forme natalizie che sono arrivati negli ultimi anni anche in Italia. Il pudding, analogo del panettone. Il porridge, che fa schifo. Però a loro piace. Un budino di riso servito con latte caldo. Il currant bun, un panino dolce con bacche di ribes e uva sultanina. In Olanda, il banketstaff. Non so come si pronuncia, però più o meno dovrebbe essere una roba di questo tipo, Sorta di cannolone molto friabile, croccante, pieno di pasta di mandorle. È pesante. In Germania, Lebkuchen, biscottoni speziati al marzapane. Il dolce della Frisia, una ciambella con mandorle speziata alla cannella. Il Dresden Stollen, che è già il nome, Pane dolce dalla consistenza molto densa, farcito con uvette affogate nel brandy, con ribes e ciliegie cucinate dentro l'impasto e guarnito con zucchero a velo, mandorle e canditi. Un incubo. Un incubo erotico magari per qualcuno, però. In Danimarca il brunekager, un pane dolce con miele, mandorle, zenzero e cannella. Il vaniljekranse, ciambellina alla vaniglia. In Norvegia julekake, pane speziato con ciliegie candite e succo di cedro. In Svezia i biscotti allo zenzero. Il kanelbuller, cioè roselline al cardamomo e alla cannella. Il saffransbuller, pagnotta gialla dalla particolare forma a S a base di zafferano. In Polonia il piernik, che significa pan di zenzero. In Ungheria il boj, rotolo dolce solitamente riempito con noci e semi di papavero e alcune volte accompagnato con marmellata di albicocche. L'Austria, la torta di Linz con mandorle, lamponi e cioccolato fondente. I Kipferl, biscotti a forma di ferro di cavallo ma mangiati solo nella zona di Vienna. In Grecia, il Kourabiedes, biscotti alle mandorle. I Krysopsomo, un tipico pane speziato. Il Melo Macaroma, biscotti composti da spezie come noce moscata, chiodi di garofano e cannella. Non so se siamo sopravvissuti a questo giro, ma abbiamo visto ogni regione, ogni luogo, ogni nazione europea ha un dolce di Natale. Ci si potrebbe aspettare lo stesso dall'Italia, no? Quindi, panettone, e vabbè, quella roba là che si chiama Pandoro. Invece no, in Italia ce n'è praticamente uno per regione. Anzi, facendo ricerche più in profondità, si scoprono che ce n'è uno per comune. Addirittura, a volte nei comuni più grossi uno per quartiere. Insomma, magari a Gratosoglio c'è il dolce che non mangiano alla Bovisa. E allora proviamo a vedere alcuni. Val d'Aosta. Si cuociono le pere sciroppate che si servono con cioccolato fuso e panna montata. E si prepara il caffè mandolà, un caffè molto robusto che si serve con mandorle e biscotti secchi. Piemonte, il torrone d'Alba. La mousse di mele rosse IGP e torta di nocciole servita con zabaione. Liguria, il pan dolce. Ad Alassio i baci di Alassio, cioccolatini ripieni di frutta secca. In Lombardia c'è mica solo il panettone, c'è anche il bossolà di Brescia, molto simile al panettone ma più soffice. In Veneto, anche qui c'è mica solo il pandoro, c'è anche l'offella d'oro veronese, un libido fra un pandoro più schiacciato e una ciambella, c'è il mandorlato di Colonia Veneta e la mostarda dolce col mascarpone. Il Trentino, lo strudel di mele, inevitabile. E poi c'è lo Zelten, una specialità del Sud Tirolo, torta con frutta secca, canditi e cannella. Friuli, la Gubana, una sfoglia di piena di un impasto di frutta secca, miele, liquido vinoso a rum. Emilia, il panone di Natale di Bologna con la mostarda e le mele cotogne. Toscana, il panforte. I Ricciarelli, biscotti di marzapane con canditi e vaniglia. I Cavallucci, biscotti di farina con noce, arancia candita, anice e spezie. Lazio, il pan pepato. Umbria, pan pepato anche qui, ma c'è anche il torciglione, rotolo di pasta dolce con le mandorle, le pinoccate, dolcetti di zucchero e pinoli. Le Marche, la pizza di Natale. L'Abruzzo, i cacionetti fritti. Il Molise, se esistesse, perché sappiamo che il Molise non esiste, si mangerebbero i calciuni, cioè castagne lessate, cedro candito, miele e vino liquoroso, oppure rum. Ma il Molise non esiste, quindi non si mangia. Campania, gli struffoli napoletani, una ciambella fatta di palline di impasto aromatizzata alla cannella. Puglia, le pettole, le cartellate, i porceduzzi, il sonna chiudere. E in Puglia ce ne sono quattro, capito, no? Cioè, perché la Puglia. A Basilicata, i calzoncelli. La Calabria, torrone, tranquilli, si va sul classico qua, c'è problema. Sicilia, tradizione secolare sulla preparazione del torrone anche in Sicilia, qui chiamato cubbaita. È fatto con le mandorle, con le nocciole o con i pistacchi, nonché i mustazzoli, dolci alle mandorle aromatizzati al miele e alla cannella. E infine, la Sardegna. Si preparano le tipiche seadas, o le sebadas, dipende come dolci al formaggio fritti, oppure un altro modo sardo di concludere il pranzo di Natale è quello di servire in tavola la ricotta fresca con il miele. Oh, tac, vabbè, la ciliegina con la torta, vabbè, tac. Allora, questo giro d'Italia ed Europa è abbastanza vorticoso, soprattutto per le papille gustative, immagino, non solamente per l'ascolto, no? Ho visto un'emozione in sala, per cui mi sembra giusto. Ma torniamo a Milano. Abbiamo detto, l'idea di aggiungere zucchero, burro e uova nel panone di Natale, fino a farlo diventare grossissimo, è di fine 800. Questa è la storia. Poi vabbè, c'è la leggenda di Tony, il garzone degli Sforza, che fa il dolce, Ludovico il Moro lo mangia, dice, che buono, dai, mangiamolo ancora. Ma sarà vera? Bah, infatti non è neanche l'unica, tra l'altro, ce ne sono altre due di robe simile, quella di Suolo Ughetta e quella di Ughetto degli Atellani, non ve le dico perché, per carità di patria, perché Suolo Ughetta è Suolo Uvetta, quindi mettiamo l'uvetta nel panetto, lasciamo stare, cioè. Passiamo ai fatti. Il primo documento che parla del panettone, chiamandolo col suo nome, è del 1606. Panatton de Danedà, c'è scritto. Panatton, là, nel primo dizionario milanese italiano, dove questo panatton sarebbe un pane grosso che si fa il giorno di Natale. Lo fanno i fornai e quindi ai clienti abituali lo regalano come regalo di Natale. Devono passare altri 200 anni però prima che un altro testo ne parli. È un altro dizionario milanese italiano, quello del Cherubini, nel 1839 parla del panatton di Natale come di una specie di pane di frumento addobbato con burro, uova e zucchero e uva passerina o sultanina. Grande di una o più libbre, se vogliamo farlo nel giorno di Natale, ma in pasta piccolino si fa tutto l'anno, a dire il vero. E qui ci sono due cose particolari. In 200 anni il pan grosso è diventato una botta calorica. Già, non è male. E soprattutto non si fa mica solo a Natale, ma tutto l'anno. E a farlo sono non solo i panettieri, ma anche i pasticceri, gli ofelè. Ofelè fa il mestè. Ecco, il mestè è quello anche di fare il panettone tutto l'anno. A fine 800 a Milano, ogni anno, i pasticceri fabbricano 350.000 kg di panettone. E i fornai 50.000, totale 400. 200 si consumano durante l'anno, 200 nelle feste di Natale. Ma a Milano, in quel periodo, vivono 300.000 persone. Quindi praticamente che ognuno mangia ogni anno 1,5 kg di panettone. A ognuno, tutti, compresi neonati e vecchi sdentati. Non è male, quindi si vede che qualcuno ne mangia un po' di più. E infatti è nel corso dell'Ottocento che nascono le pasticcerie famose, che ancora oggi, nomi, no? Nel 1817 viene aperto Cova. Nel 1824 Marchesi, in Via Meravigli. Nel 1867 il Biffi in Galleria, nel 98 le Tre Marie vicino al Duomo. L'usanza di regalare il panettone si estende, i fornai lo regalano ai loro clienti, che spesso sono poveracci che non si possono permettere il panettone di Cova o di Marchesi, e i casta invece lo comprano dalle pasticcerie del centro e lo regalano a amici e parenti, oppure lo usano per attività di public relation, come diremmo oggi. Insomma, come oggi, no? Quando si è invitati da qualcuno, si parte e si porta il panettone. Però noi portiamo il panettone al primo prezzo della PAM, così almeno siamo tranquilli, no? Quelli invece no, ai tempi è una sciccheria il panettone. Quindi se arriva una via col panettone, è come se oggi uno arriva a una festa di sconosciuti con una bottiglia di Talis che è invecchiato 25 anni. Cazzo, non male, eh? Però. Lo testimoniano delle lettere di personaggi illustri, tra l'altro. Nel 1865 Gioacchino Rossini ringrazia il suo editore Ricordi per avergli fatto arrivare a Parigi il panettone. Lo stesso fa Giuseppe Verdi nel 1880, sempre con Ricordi, che evidentemente è un abitué, ogni anno dà il panettone a qualcuno. Nel 1871 Manzoni ringrazia il nuovo proprietario del forno delle Grucce, che dopo la distruzione per i tumulti di 250 anni prima che sono stati descritti dal Manzoni nei Promessi Sposi, lo riapre proprio quell'anno e, genialata di marketing, cosa fa? Regala il panettone a quello che ne ha parlato. Tac! Vedi che alla fine il marketing l'abbiamo inventato noi, c'è poco da fare. Verga ringrazia nel 1885 la contessa Paolina Greppi per l'invio di un panettone a Catania e perfino Garibaldi, il Peppino, poteva mancare lui. E beh, nel 1876 scrive una lettera di ringraziamento per il pacco regalo in cui oltre al panettone ci sono anche mostarda, tordone e cioccolato. Nel 1848 circola una vignetta satirica. Mostra Metternich, quello del congresso di Vienna, il cattivone, che giunge a Milano, che sembra un po' turbolenta nei confronti della dominazione austriaca, e chiede al governatore: ma allora questi milanesi come sono? Sono buoni o sono cattivi? La risposta, nella vignetta, è immediata e molto convinta. Buoni signore, come questo panettone, e indica il panettone che ha sotto braccio. La vignetta dovrebbe far ridere perché mostra come ogni popolo può essere ammansito facendolo mangiare. In realtà fa ridere per motivi molto diversi. Il primo è che il cosiddetto panettone disegnato in vignetta in realtà è una specie di focaccione gigantesco abbastanza insipido e schifoso. La seconda è che pochi giorni dopo l'uscita della vignetta scoppiano le 5 giornate. Non sono stati molto lungimiranti quelli che l'hanno fatta. Ma torniamo al panettone. A metà 800, quindi vediamo dalla vignetta, è dolce, sì, ma è ancora schiacciato. Il cambiamento sta per avvenire. Attenzione. Nel 1854 Giovanni Vialardi, aiutante capo cuoco di Vittorio Emanuele II, suggerisce di inserire tuorli d'uovo e canditi, così che la mollica interna possa prendere un po' di colore. Nel 1868 Giuseppe Sorbiatti propone per la prima volta lievitazioni multiple, che rendono l'impasto sempre più gonfio, più morbido, più leggero. Nel 1907 c'è la codificazione della ricetta, fatta da Giuseppe Ciocca, in un libro che si chiama Il pasticcere e confettiere moderno, su cui hanno studiato legioni di pasticceri professionisti, anche Iginio Massari, credo. Per la prima volta si parla di macchine impastatrici, che aiutano il pasticcere a rendere l'impasto più morbido. E poi della scarpatura, cioè il taglio a croce nella parte in alto, che è usato per aprire leggermente durante la cottura e inserire ancora burro. Nel 1919, un 29enne apprendista, pasticcere, sceglie di impiegare le 700 lire ottenute come premio per aver fatto il soldato durante la Prima Guerra Mondiale per comprare le attrezzature di un fornaio che ha appena chiuso la sua bottega e affitta un negozio. Un negozio con annesso laboratorio in via della Chiusa, dietro la Basilica di San Lorenzo. Nonostante sia di origini modestissime, il ragazzo sceglie di gettare il cuore oltre l'ostacolo. È dal 1907 che lavora in pasticceria, da quando è un ragazzino. Ha imparato un sacco di cose, gli anni in guerra li ha passati sperando di riuscire a salvarsi e poter aprire la propria pasticceria. Vuole sfornare panettoni. Quello vuole fare. Ha idee grandiose in testa e pensa che un giorno sarà famoso. Il suo nome è Angelo Motta. Direi che un po' famoso lo è diventato. Appena appena, Nasce così, in modo spartano, l'avventura di un imprenditore che ha rivoluzionato il modo di immaginare il panettone, non solo di farlo. Lo ha trasformato in dolce nazionale, perfino mondiale addirittura. Spregiudicata trasformazione della ricetta è un fiuto incredibile per gli affari. Le idee vincenti dell'Angiulin sono quelle di aumentare un bel po', ma di un bel po', il contenuto di burro, uova e zucchero. Facile, no? Allungare i tempi di lievitazione e di cottura per rendere la pasta più molle e genialata. Mettere intorno al dolce messo in forno una fasciatura di carta. Così non lievita in questa direzione, ma lievita per forza verso l'alto. Sembra una cazzata, però devi essere prima a pensarlo. A dire il vero, la lievitazione più lunga e la fasciatura di carta non è proprio lui che se l'è inventata. È già stata sperimentata da Domenico Melegatti, proprio lui, il Melegatti, qualche anno prima, per creare il pandoro, perché il pandoro è così. Quindi per poterlo fare, lui ha immaginato di fare sta roba. E siccome il Melegatti c'ha un negozio in corso Vittorio Emanuele, può benissimo darsi che Motta l'abbia visto e gli ha fregato l'idea. Ma la differenza sostanziale è che Melegatti l'ha usata per fare quella merda, mentre Motta l'ha fatta per fare il panettone. Questa è la differenza. L'idea di Motta, che arriva per la prima volta nelle tavole dei milanesi nel 1921, è vincente. La piccola e stretta via della Chiusa diventa un ingorgo perenne nel mese di dicembre. E già nel 1923 Motta è costretto a comprare nuovi spazi in uno stabile che sta costruendo in via Mazzini, al 20. Primo piano, sede degli uffici. Sotterraneo, laboratorio. Piano terra, nel 1928, è il primo bar Motta, che è un luogo di lusso, con barman efficientissimi, con messe eleganti condivise color biscotto e un avvenirissimo nastro trasportatore tra il banco di vendita e la cassa, che come una ferrovia aerea porta i panettoni dal luogo delle ordinazioni a quello del pagamento. Oh, 1928, Motta, che ha la terza elementare, in realtà, è un'istintività quasi animalesca, capisce confusamente che c'è bisogno di un marchio però per distinguersi, anche perché Gioacchino Alemagna, che è di qualche anno più giovane, ha aperto anche lui una pasticceria in centro e gli fa una concorrenza pazzesca copiando ogni sua idea. Allora nel 1934 Motta chiede a Dino Villani, capo del suo ufficio pubblicità, di trovare un grafico, un pittore, insomma qualcuno che se ne intende, no? Ecco, per creare il nuovo logo della Motta. Villani convoca Severo Fossati, che è un pittore pubblicitario che si nasconde sotto lo pseudonimo di Sepo. L'angelo lo squadra da capo a piedi gli fa un briefing secco, immediato. Non so chi sia lei, ma se la chiamate Villani di sicuro lei è uno bravo. Lei deve fare solo una cosa, far percepire l'idea del soffice. Di cosa, mi scusi? Del soffice? Ma mai mangiato uno dei miei panettoni? Ma sai perché le vendo a quintalate? Perché sono soffici, più di quelli del secolo scorso. Allora deve far capire l'idea del soffice, ha capito? Sì, ho capito, ma no, ha capito un tubo, eh? Chiamatemi qualcuno in laboratorio, facciamo assaggiare qualcosa qua all'artista, così gli vengono le idee, dai, forza. Angiolin è abbastanza famoso per queste sfuriate un po' arroganti, un po' presuntuose, ma Seppo non lo sa. È appena uscito e pensa, il cazzo crede di essere questo? A me non va di lavorare per sto contadino arricchito. No, no, e gli sbatte fuori un preventivo monstro di 20.000 lire. Per fare un'idea, Dudovic, che è l'artista che in quegli anni crea i più bei poster per la Rinascente, ne prende 1.000. Ecco, con sua enorme sorpresa, Motta accetta. Sarà anche un contadino arricchito, ma non è scemo. Adesso Seppo è sotto pressione e dovrà fare un lavoro pazzesco, perché se deve guadagnare quei 20.000 lire. Dopo settimane di travaglio, Seppo ne esce con la famosa M rossa, su cui è disegnato un panettone, quattro fette in semicerchio e con un basso a destra un logo più piccolo in cui la M prende le sembianze del Duomo. È una delle immagini più iconiche della storia del design industriale pubblicitario e anche una gran paraculata perché, guarda caso, M è l'iniziale di Mussolini. Siamo nel 34. Per cui, in pochi anni Motta diventa leader di mercato. Apre un negozio dopo l'altro, Lima, Cavrobbio, Piazzale Baracca, Corso Garibaldi, Corso 22 Marzo, ma soprattutto in Piazza del Duomo. All'inizio della galleria, di fronte al Campanino, un negozio inaugurato nel 1928 e che c'è ancora oggi. E nel 1930 fonda un grande stabilimento in Viale Corsica, che addirittura ingrandisce solo 5 anni dopo, ma ancora il panettone roba solo per i milanesi. Non è mica un dolce nazionale, lo diventa subito dopo la guerra. Grazie a un'altra genialata di Motta. Motta diventa sponsor del Giro d'Italia. Ogni giorno regala un gigantesco panettone da 12 kg a chi vince la tappa. Così il panettone viene conosciuto in tutta Italia e Motta passa da una produzione tutto sommato poco più che artigianale a una produzione industriale. Gli anni del boom vedono Motta al top. Esporta in 80 paesi. Ha 4.000 dipendenti. Solo il bar di Piazza San Babila ne ha 140 di dipendenti. Solo quello. Fattura e margine con incrementi del 5-6% l'anno. Produce non solo panettone, ma qualsiasi tipo di dolce. Gelati, caramelle, grissini, con marchi famosissimi, la Girella, il Buondì, il Mottarello. Vabbè. E che ve lo dico a fare? E poi all'improvviso muoiono prima Sciurangelo nel 1957 e poi suo braccio destro Alberto Ferrante nel 1965. Tutte e due, incredibile a dirsi, muoiono lo stesso giorno. E non è un giorno qualunque. È la notte tra il 25 e il 26 dicembre. Come a dire, oh, quel che dovevo fare l'ho fatto. Il Natale è passato, mangiatevi i miei panettoni. Io me ne vado, Gli anni dopo del 65 sono quelli del declino. Motta viene acquistata prima dallo Stato e poi a fine anni 60 si fonde con l'odiatissimo concorrente Alemagna, mantenendo linee produttive diverse però, quindi moltiplicando i costi, quindi un gran casino. Nel 1993 i marchi vengono ceduti all'Impero del Male, cioè la Nestlé. Ma solo nel 2009 il marchio Motta ritorna italiano, venendo però acquistato, tenetevi forte, dalla Bauli. Cioè il marchio di chi ha fatto diventare il panettone da dolce tipico milanese a dolce nazionale in mano a chi fa quella specie di sbobba spugnosa e glassata che va giù come uno zucchero filato fatto da un hippie in acido. Ben gli sta al Motta, mi verrebbe da dire. Hai voluto cambiare la ricetta? Hai voluto togliere la magia dell'artigianalità? Hai cambiato il formato del dolce? Becca di questa, ti tieni i nuovi padroni veneti. Ecco. Perché poi oggi i panettoni industriali sono di tutti i tipi, con prezzi a volte ridicolmente bassi e varianti che mi stringono il cuore. Al cioccolato glassato, col marron glacé, con l'amarena, col cioccolato fondente, col pistacchio, con croccantini, alle mele, con fragoline, con crema pasticcera, senza canditi! Cazzo, il panettone senza canditi! Ma che cos'è? Vabbè, lo so, i gusti sono gusti. E a tutti piacciono le varianti. Ma se una cosa è buona così com'è, perché bisogna cambiarla? Oh, ve lo devo confessare, io in cucina sono un talebano. La pizza, margherita. Perché l'hanno inventata in quel modo, per cui va bene così. Sulla carbonara, guanciale. Ah, pancetta. O il bacon. Il panettone, passo. Con canditi e uvette, niente altro, stop, morta lì. Semplice. E però mi potreste dire, vabbè, ma la cucina è anche una serie di tentativi, no? A volte la bontà arriva per caso. E qui effettivamente mi fregereste, perché proprio il panettone nasce per caso. Qui la leggenda mi tocca raccontarla. Eh sì, su cui all'inizio ho sorvolato, no? Andiamo con la mente una sera qualsiasi di fine 400. Facciamo che sia 1494. Dai, via. Anzi, il 20 dicembre del 1494. Dai, via. Siamo al Castello Sforzesco. Cena natalizia. Organizzata dal duca. Ma se chiudiamo gli occhi, magari cioè, proprio ce le immaginiamo bene. Cortile della Rocchetta, quello in fondo a sinistra. Scalinata, che va al primo piano, siamo nell'enorme sala della palla. Se qualcuno è andato qualche volta a Book City, lì si fanno molte conferenze. Qui è enorme, enorme. Una tavolata gigantesca a ferro di cavallo, al centro Ludovico il Moro, a fianco alla moglie, Beatrice d'Este. Intorno tutti i nobili milanesi, le personalità più in vista della città. Ci sono i Trivulzio, capitanati dal condottiero Gian Giacomo, generale delle armate sforzesche. Gli Arcimboldi con il conte Guido Antonio, arcivescovo e capo del Senato. I Landriani con Antonio, ministro delle finanze del duca. Pietro, tutore del nipote Gian Galeazzo, che è morto da poco. E poi tutti gli altri. Poi c'è Bramante, che giochicchia da esibizionista con la sua blusa di broccato. Sono Bramante. E poi c'è Leonardo, svagato, mal vestito, con la barba un po' sfatta, i capelli che devi lavarli da due settimane. Si guarda intorno curioso, fa disegni, perché non sa scrivere, perché fa disegni. Forse vedendo tutta quella gente a cena, gli viene in mente qualcosa per un affresco che Ludovico il Moro gli ha detto di fare a Santa Maria delle Grazie. Ma, da, ma, aspetta, va, facciamo dei disegnini. Non si sa mai che magari, eh. Oh, menù notevole, Gamberi in salsa di mela, sfogliata di rana pescatrice, schiena di manzo alla veneziana, anatra selvatica in salsa di prugne, sfogliata di vitella, ravioli con ripieno di parmigiano, salsa di erbe aromatiche, sfogliata di salmerino, polli variopinti, selvaggina al pepe, crema di fichi, frutta fresca secca e vino in quantità industriale. Siamo alla fine della cena, si aspetta il dolce. Ma il dolce non arriva. E cazzo. I musici che allietano la cena rifanno per la terza e la quarta volta la stessa canzone, che ormai hanno finito il repertorio. Ludovico incomincia un po' a spazientirsi, osserva con aria torva verso l'ingresso delle cucine, chiedendosi perché non arrivi il dolce che lui tra l'altro ha richiesto, cioè una gigantesca torta glassata ultra lievitata fino a farla somigliare al Duomo di Milano. E però non arriva. E perché non arriva? Perché la fantastica torta si è bruciata. Si è bruciata nel forno, forse per distrazione, forse per problemi con la legna, non si sa. E nelle cucine del castello si sta consumando il dramma. Il cuoco, infatti, non sa più che fare. Piange sconsolato, di fronte a una specie di pan dolce bruciacchiato e senza sapore. È sicuro che verrà passato per le armi. Il duca non perdona un simile affronto, ma non riesce a fare nulla per uscire dal casino, non sa cosa fare. Si vede già penzolare da una forca, oppure nelle segrete del castello. Piangendo dice al suo garzone, Tony, di salutare per lui sua moglie e il suo piccolo figlio, che ha solo 3 anni, non lo vedrà mai più. Vabbè, ok. Tony però non ci sta, perché anche lui probabilmente sarebbe finito malissimo, e lui non ci sta a fare questa fine orribile, e che caspita, finché gli viene in mente un'idea a Tony. Apre tutti gli scomparti delle dispense, prende qualsiasi cosa di più o meno dolce ci sia, uva passa, datteri, canditi, pezzi di zucchero solidi, burro, vaniglia, qualsiasi cosa, fa dei buchi sopra questo pane abbrustolito e ci ficca dentro tutta quella roba. Il cuoco lo guarda: che cazzo stai facendo? Oh, ascolta, se non presentiamo il dolce di sicuro finiamo appesi o morti ammazzati, se lo presentiamo bruttino ma con qualche velleità forse anche, ma forse no. Non so lei capo, ma io di finire appeso non ho molta voglia, sono giovane e ho voglia di vivere, e allora ci provo. Il cuoco non osa replicare, prova solo a dirgli che è un pazzo e che secondo lui il duca lo ammazzerà subito davanti a tutti anziché aspettare qualche giorno per il processo, ma poi però lo segue mentre esce dalla cucina con mezz'ora di ritardo rispetto all'orario pattuito, portando con sé quell'abominio zuccheroso. E poco ci manca che Ludovico faccia in effetti quello che teme il cuoco, che pavidamente si tiene alle spalle di Tony, cioè Tony davanti e il cuoco dietro. Ma Tony previene l'ira del duca e di fronte a lui e ai presenti attoniti racconta che quel dolce, che sembra tanto brutto e spaventevole, è una sua personale creazione, che va oltre le apparenze. È come una dama la cui bellezza va indagata interiormente, e non solo dal viso o dal corpo. Provatelo, mio signore, e vedrete l'effetto che fa. Ludovico, che forse ha capito tutto e che ammira sinceramente chi sfida il destino, con uno dei suoi sogghigni furbetti mette in bocca una fetta di dolce sicuro che sia vomitevole, e quindi con già in mente il fatto di ammazzare il cuoco direttamente con la sua lancia, con la sua spada. Ma con sua meraviglia, quel dolce è una delizia. E gli apre le papille gustative come niente altro prima. Oddio! Ma è buonissimo! Ma come si chiama questa cosa meravigliosa? Che nome ha questo dolce? Mentre il cuoco, ringalluzzito, esce da dietro le spalle di Tony dicendo: comunque l'impasto l'ho fatto io, cioè volevo dirlo, che sia messo agli atti, Tony risponde dicendo che non ha ancora scelto il nome del dolce. No, boh, è una mia creazione. Ah, come vi chiamate, ragazzo? Tony, mio signore. Bene, allora d'ora in poi questo dolce sarà chiamato Pan de Tony. Così ho deciso. Il giovane garzone, rimbambito per lo stupore, fa un solenne inchino e se ne torna in cucina con un sorriso da orecchio a orecchio. Il cuoco fa per seguirlo, ma Ludovico lo ferma. No, fermo. Tu cuoco resti qui. Ho capito quello che è successo. Non sono mica nato ieri. Il tuo garzone, un ragazzino alle prime armi, si è dimostrato 100 volte più coraggioso di te, che sei un pavido e un furfante approfittatore. Dovrai sbatterti nelle segrete e li lasciati a marcire per dei mesi, ma una bontà simile mi ha ingentilito l'animo. Non posso essere così cattivo. Da questo momento in poi, Tony diventerà mio cuoco personale e tu il suo garzone. E ora vattene, c'è molto da pulire in cucina. Da quel giorno, e per tutte le feste di Natale, Ludovico volle il suo pan de Tony, e questo diventò il dolce natalizio per eccellenza, per celebrare quella sera indimenticabile. E il dolce diventò noto anche presso la gente comune, e nel parlato pan de Tony diventò in poco tempo panettone. Mi potreste dire che in realtà nel dizionario milanese italiano, sia quello del 600 che quello dell'800, in realtà veniva chiamato panattone e non panettone, che insomma come crasi insomma un po' strana. Poi che se la leggenda fosse vera non si capisce perché non c'è traccia del panettone con l'uvetta fino all'Ottocento. E perché parlando dei panattoni, questo disegnatore satirico dell'848 ha fatto invece una specie di focaccione. Mi potreste dire queste cose. E io vi risponderei che siete noiosi. E che anche per il panettone vale quello che dice l'editore dello Shinbone Stars al termine del film L'uomo che uccise Liberty Valance. Non l'avete visto? Guardatelo. È di John Ford. Ne vale la pena. Per tutti, il senatore Stoddard nel film è l'eroe che 25 anni prima liberò Shinburn dalle vessazioni del bandito Liberty Valance, uccidendolo in un duello. In realtà, a uccidere Valance non fu lui, ma fu Tom, un amico di Stoddard, nascosto in un angolo. Ho fatto spoiler, scusate, vabbè. Però, 60 anni fa, cazzo volete, cioè, scritto da tutte le parti. Solo il senatore lo sa, la verità. Solo lui, che è diventato un eroe. Solo lui sa la verità. È tornato a Shinburn per il funerale di Tom. Lui vuole che si sappia che il vero eroe non è lui, ma è Tom, e consegna un memoriale al direttore dello Shinburn Stars perché venga pubblicato. Per tutta risposta, il direttore getta il memoriale nella stufa e se ne va, pronunciando una frase che per quel che mi riguarda vale anche per la nascita del panettone. When the legend becomes fact, print the legend. Grazie. Grazie. Grazie. E adesso si mangia. Grazie. Yeah. Dimmi il panettone. Quello basso. Non quello del Mosta. Quello basso, artigianale. Cazzo. Grazie. Grazie mille.